Per prima cosa, indubbiamente, il saluto più cordiale e deferente a tutti gli intervenuti. Elenco per prima le adesioni più autorevoli che mi sono pervenute per questa serata, a cominciare adesioni non formali, ma veramente congiunte a un messaggio orale che caso per caso mi è stato trasmesso e affidato, per dire l'adesione cordiale a questa presentazione. Primo di tutti l'Arcivescovo Monsignor Giovanni Maria Sartori, che si scusa perché è per una cresima in Val di Rumo e che si è espresso veramente in termini di grande entusiasmo per l'opera da noi compiuta. Poi devo ricordare il Vescovo ausiliare di Monaco, Monsignor Ernst Teves, che è stato tra gli ispiratori del nostro corso Guardini, di cui parleremo. Era amico personale di Romano Guardini ed è anche partecipe del volume, come vedremo da un suo intervento sul senso della Chiesa, che però celebrava ieri l'80° compleanno con un programma da parte della Accademia Cattolica di Monaco e che quindi veramente con rincrescimento non può essere con noi quest'oggi. Poi il Vescovo di Vicenza, Monsignor Pietro Nonis, che è stato tra i relatori e quindi anche tra i collaboratori di questo volume, anche con molta gentilezza mi prega di esprimere la sua adesione. Così pure il Vescovo di Bolzano Bressanone, Monsignor Vili Ecker, che è, come tutti sanno, è membro del comitato scientifico del nostro istituto. A questi va aggiunto il nome e l'adesione del dottor Giuliano Guardini, il nipote di Romano Guardini, che con una gentilissima telefonata mi ha espresso il suo desiderio di essere con noi in questa sera, ma l'impossibilità per ragioni precise di salute che mi spiegava di non poter essere con noi. Così pure una delle relatrici più insigni del nostro libro, la biografa di Romano Guardini, Anna Barbara Gerl, e Silvano Maggiani, che nel libro ha trattato l'argomento liturgia in Romano Guardini, come pure il professor Ernst Wieser, che era con noi ieri ma che ha dovuto rientrare a Monaco, anche lui presente nel libro con ben due contributi: l'uno la sua lezione magistrale che noi abbiamo tenuto anche con carattere di commemorazione del centenario di nascita Rosmini il 26 novembre dell'85, su come Guardini ha visto e interpretato le possibilità di essere uomini nell'epoca contemporanea, a cui si aggiunge un contributo sull'antropologia in Guardini e che purtroppo anche lui si scusa di poter aderire soltanto spiritualmente, avendo dovuto rientrare ancora ieri. Accanto a questo va espresso particolare ringraziamento ai relatori. In certo qual modo questo incontro era pensato ed è pensato anche come un momento festivo per i relatori che hanno partecipato a quel corso e dunque quelli che hanno potuto aderire al nostro invito, la professoressa Manferdini, il caro reverendo Gamerro, sono con noi in questa sera e possono partecipare a questo momento festivo. Li ringrazio in modo particolare. Poi vanno ricordati quelli che furono gli artefici principali del volume stesso, ovvero il nostro segretario Menestrina, il professor Silvano Zuccal e i nostri borsisti che in maniera varia hanno contribuito alla riuscita del volume. Il contenuto del volume è, come ho già accennato, ovvero quello del corso monografico con 7 lezioni che furono tenute tra il 1985, il novembre 85 e il gennaio 86, sul quale il dottor Zuccal penso che ancora si diffonderà con una descrizione più esplicita. Io mi limito qui soltanto a ricordare quelli che furono i motivi di una affezione particolare per Romano Guardini nell'anno centenario della sua nascita, a cui è seguito, ovvero in quest'anno, il ventennio della morte avvenuta nel 68. Ecco, e i motivi per cui ci sentiamo stimolati un po' a considerare Romano Guardini un po' come un nome tutelare del nostro istituto. Da un lato la sua internazionalità culturale, europea, che vede anche noi in questa posizione di ponte tra l'ambiente italiano e quello germanico, dall'altro la sua interdisciplinarità, l'essere fuori da categorie rigidamente accademiche e invece guardare molto al vivo alla situazione spirituale del nostro tempo. E da ultimo, anche se molto più modesto, il terzo motivo affettivo, quello di certe radici trentine che Romano Guardini ha soprattutto da parte per linea materna. Ecco, mi limito a questo, rinnovando il ringraziamento e pregando per intanto il dottor Zucal di prendere la parola e esplicitare alquanto di più le vicende e il contenuto del volume stesso. Sì, innanzitutto gli obiettivi che ci eravamo posti nell'intraprendere una ricerca di questo tipo, quindi nel mio breve intervento non potrò assolutamente cercare un'impossibile sintesi dei contributi che sono ricchi, contributi che sono raccolti in questo volume, ma più semplicemente quello di giustificare una nuova pubblicazione su Guardini e anche un punto enunciare in qualche modo i criteri con i quali abbiamo cercato di ordinare questo materiale. Ecco, il primo aspetto credo possiamo esprimerlo anche con un interrogativo. Perché ripensare oggi Romano Guardini? Perché riproporne il messaggio? C'è stata un'occasione, appunto, che è stata l'occasione celebrativa offerta dal centenario della nascita, ha suggerito in prima istanza questa ricerca, ma non è sufficiente a spiegare in tutta la sua portata l'uscita di questo volume e soprattutto a garantirne un'accoglienza atta a suscitare uno stimolo efficace nell'attuale situazione culturale. Quindi non credo che sia peregrino, ma anzi in un certo modo è pregiudiziale tentare una risposta a questo interrogativo. Romano Guardini, come sottolineava anche Monsignor Roger, è un pensatore fuori dalle abituali divisioni accademiche, un pensatore quindi anche che suscita un'inevitabile diffidenza, soprattutto in un ambiente accademico sia in campo teologico che filosofico. Si è in genere tutti disponibili a concedere a Guardini un rilevante ruolo storico, da lui esercitato nel saper suscitare movimenti come quello liturgico, nell'aprire nuove prospettive in campo pedagogico educativo, ma si è meno disponibili a riconoscere a Guardini statura di teologo, statura di filosofo, ma anche statura di esegeta della scrittura o di autentico interprete della letteratura. E dobbiamo dirci con molta franchezza che se la grandezza di Guardini fosse affidata esclusivamente al ruolo storico che Guardini ha interpretato, con ciò sarebbe insieme segnata la sua fine come pensatore, che può ambire ad un futuro. Una volta che la fase storica da lui vivificata come testimone e acutamente interpretata si fosse conclusa come di fatto lo è. Ecco, Karl Rahner, con efficace sintesi, in uno splendido contributo al volume miscellaneo per l'80° compleanno di Romano Guardini, più di 20 anni fa si poneva in fondo questi stessi analoghi interrogativi e credo che la risposta di Rahner può rimanere valida anche oggi. Anche Rahner si chiedeva come l'opera di Guardini si inserisca nel nostro più recente passato e nel nostro presente, quale significato vi assume, quale influenza vi possa esercitare. E certamente Rahner si poneva un interrogativo di questo genere in un contesto come quello del periodo conciliare che da un lato favoriva, ma dall'altro paradossalmente inibiva, impediva uno sguardo adeguato e complessivo sul pensiero di Guardini. Rahner, in chiave retrospettiva, sottolineava come Guardini si era formato nell'epoca del modernismo, aveva conosciuto il culmine del suo operare nel periodo successivo alla Prima Guerra Mondiale e vedeva il tramonto della sua esistenza in quell'alba carica di speranza per la Chiesa Cattolica che fu il Concilio Vaticano II. Ebbene, in quest'arco di tempo così carico di eventi e così carico di tragedie, si può dire che mai Romano Guardini è rimasto semplice spettatore, ma tutto ha condiviso e, per molteplici aspetti, di molte positive evoluzioni nella vita della Chiesa, come della società del suo tempo, è stato iniziatore e pioniere. Nella storia tedesca è stato anzi il vero maestro di due generazioni sconfitte, dopo la prima come dopo la seconda guerra mondiale, fino a meritarsi il nome suggestivo di Preceptor Germanie e ad insegnare ai giovani tedeschi la resistenza e la fedeltà interiore anche quando il nemico era così potente e ideologicamente così subdolo come il nazionalsocialismo. Ma se questo costituisce la dimensione educativa del suo impegno, una sottile pedagogia della storia che rimane ammirevole, il merito storico di Guardini è da ritrovare per Rahner soprattutto nell'avergli accompagnato con umiltà e coraggio, con pazienza e mitezza, senza polemiche, senza inutili controversie, ma con il gusto dell'essenziale e una non comune avvedutezza, la grande svolta avvenuta nella Chiesa del nostro secolo, per cui la Chiesa ha lasciato, dice Rahner, anche particolarmente per merito di Guardini, una consapevolezza di sé come una società chiusa, autosufficiente spiritualmente, culturalmente, umanamente, la quale si difende, addirittura può apparire conquistatrice in quanto è la conservatrice, per giungere a un'autoconsapevolezza in cui la Chiesa, senza remore e impacci, sebbene andando incontro a rischi, si immerge nella situazione dell'epoca, donando nell'atto stesso in cui è pronta a ricevere, solidarizzando con il suo tempo nel portarne insieme il peso dei rischi e dei problemi, aprendosi la strada in una nuova era che neppure essa può delineare in anticipo, servendo e assumendosi sollecitudini per l'uomo, non per se stessa. Ecco, Guardini quindi come il pioniere di un nuovo modo di porsi della Chiesa Cattolica, non più centrato su di sé, ma che abbatte i bastioni della propria metaforica fortezza, secondo la celebre espressione di Hans-Urs von Balthasar, per aprirsi al mondo e porsi al suo servizio. Questa volta implicava un superamento di tutti quegli aspetti dell'opposizione al modernismo che si erano aggiunti in fase polemica e non coincidevano con la comprensibile lotta della Chiesa in difesa della sua autoconsapevolezza teologica che la vuole legittimata da Dio e non solo dagli uomini e in possesso di una rivelazione autenticamente divina. Guardini, questo è il suo merito, riuscirà a separare da tale legittima lotta quello che non le apparteneva come valido e autentico, e cioè l'integralismo che pretendeva dominare direttamente la vita intera come proiezione ecclesiastica, l'enfatizzazione di una filosofia neoscolastica che si chiudeva ad ogni positivo rapporto con la filosofia moderna e si rivelava assolutamente inadeguato sia nei confronti della grande tradizione della Chiesa sia della stessa eredità impegnativa del pensiero di Tommaso. Infine, un conservatorismo sociale gerarchico che credeva di poter trovare verità e grazia di Dio solo nel guscio che la Chiesa si era costruito dal tempo dell'illuminismo. La controversia modernistica lasciò indubbiamente delle cicatrici profonde sugli uomini che come Guardini si erano formati in quel tempo e ne avevano sofferto il disagio, ma fu proprio per merito di uomini di questo tipo che si riuscì di nuovo a realizzare una saldatura tra Chiesa e mondo. Guardini dunque fu tra coloro che trovarono la parola giusta, che contemporaneamente non fosse indigesta la Chiesa ufficiale e comunicasse alla propria epoca, permettendo di superare la contrapposizione troppo rigida e lo iato troppo profondo tra l'essere uomini del proprio tempo e l'essere cristiani. Veniva con ciò abbandonata ogni forma di pregiudiziale risentimento nei confronti dell'età moderna, senza per questo rinunciare, quando fosse necessario, al discernimento, alla critica e al distanziamento rispetto al proprio tempo. Questo è il merito che Rahner attribuisce fondamentalmente a Guardini. Ebbene, la risposta di Rahner sul significato dell'opera di Romano Guardini nel nostro tempo e il conseguente giudizio finale sono indubbiamente di particolare rilievo e collocano il nostro pensatore, proprio per l'autorevolezza di chi ha pronunciato un tale giudizio, su di un piano di assoluto prestigio. Però l'interrogativo iniziale rimane, già che questo volume esse più di 20 anni dopo il saggio di Rahner e molte cose nella Chiesa e nella società occidentale, avviata ormai al suo destino postmoderno preconizzato dal Guardini, sono cambiate. Rahner ha documentato la straordinaria preveggenza guardiniana, il suo anticipare i tempi dello spirito che si sarebbero espressi nel grande concilio. Ma proprio questo, a mio parere, può paradossalmente spiegare il diffuso silenzio, se non la vera e propria emarginazione, che ha circondato l'opera guardiniana dopo il concilio e dopo il 68, anno in cui, con coincidenza straordinaria con la data simbolo della nuova crisi epocale della società occidentale, Guardini moriva. Il rischio, quindi, è che tutto il lavoro guardiniano sia visto solo come un eccezionale apporto propedeutico al concilio, ed egli sia quindi l'autorevole esponente di una storia compiuta che è ormai dietro le nostre spalle. Un grande ruolo storico, indubbiamente, ma un grande ruolo storico consumato, il suo e null'altro. Non era certo questa l'intenzione profonda della tesi raneriana che ho citato, ma è certo che al di là di Rahner e ben oltre il suo assunto, questa è una certa ed anche ampiamente diffusa precomprensione che ha inibito un'adeguata recezione di Romano Guardini. Guardini è stato indubbiamente l'iniziatore del movimento liturgico, il grande suscitatore della capacità di intendere la liturgia, favorendo un nuovo approccio ad essa, alla sua parola, ai suoi gesti e segni, fino al più intimo mistero dell'Eucaristia, per giungere a quella sensibilità nuova che il Concilio ha proposto come compito a tutta la Chiesa, ma anche su questo terreno, che in modo più ovvio e scontato potrebbe dirsi ciò che del pensiero di Guardini ha trovato compimento e insieme anche conclusione al Concilio, potremmo trovare elementi di sorprendente utilità per l'oggi, come conferma del resto ampiamente il contributo proposto nel volume da Silvano Maggiani. Comunque, limitare l'apporto guardiniano al suo impegno per la rinascita di un'autentica vita liturgica, o a quello di educatore appassionato della Jugendbewegung tedesca, sarebbe fortemente riduttivo ed inficerebbe alla radice la possibilità di riconoscere una significativa attualità del pensiero guardiniano. Certo, anche riflettere sull'attualità o meno di Guardini, come faremo oggi, è in certo modo improprio. Egli si è sempre professato inattuale, impegnando anzi tutta la sua esistenza a indicare agli uomini il mistero umanamente incomprensibile e indicibile che chiamiamo Dio e che si è rivelato in Cristo, attento quindi soprattutto a servire e scoprire l'Eterno nell'uomo e il suo rapporto originario autentico con Dio, più che a fermarsi e limitarsi agli appelli della contingenza storica. Pur in questa deliberata inattualità, Guardini ha però parlato con intensità straordinaria al suo tempo. Ora, quanto noi ci chiediamo è se proprio in virtù della sua voluta professione di pensatore inattuale, egli possa essere attuale per noi, in grado cioè di parlare anche al nostro tempo ecclesialmente e teologicamente post-conciliare e culturalmente postmoderno. Una risposta affermativa è condizionata però da una riabilitazione di Guardini come teologo, come esegeta, come filosofo, come ermeneuta della letteratura, al di là dei sospetti e dei disagi che il suo modo del tutto particolare di essere maestro a questi quattro livelli ha suscitato negli ambienti accademici. Saranno oggi quindi i professori Silsone e Melchiorre ad offrirci, da un punto di vista assolutamente autorevole, una possibile risposta convincente, sia in ambito teologico che filosofico, sulle possibilità per una recezione adeguata del pensiero di Romano Guardini. Personalmente, e vengo alla conclusione, mi sembra di poter azzardare l'ipotesi che oggi i tempi siano più maturi per cogliere e per apprezzare l'apporto peculiare di Guardini senza censurarlo come dilettantismo e come superficiale eclettismo. Certo, non ha mai voluto essere un costruttore di sistemi, né ha mai voluto sfoggiare erudizione, pur essendo dotato di una solida base di riferimenti culturali dovuta non da ultimo a un'eccezionale capacità di assimilazione. Il suo rimane comunque un pensiero, egualmente un pensiero rigoroso, in cui confluiscono le due patrie culturali, come hanno sottolineato spesso i suoi interpreti, e cioè la chiarezza latina ereditata dall'origine italiana e quella sensibilità per l'insondabile che gli veniva dalla cultura d'elezione del mondo tedesco. Solo se Romano Guardini viene riabilitato e riconosciuto come teologo, come filosofo, e a certe condizioni può esserlo, e forse oggi più di ieri, quanto ho cercato di argomentare anche nella mia introduzione, egli può rimanere come maestro anche per il nostro tempo, che proprio di alcune sue magistrali intuizioni è assetato. Se invece viene ridotto a figura storica rilevante, finché si vuole, della storia tedesca del Novecento, Il suo magistero è stato fecondo, ma non può dire più assolutamente nulla alla coscienza contemporanea e lo studio di Guardini è affidato solo agli storici. Questo quindi è il senso del volume. È un volume che accetta la sfida ed azzarda l'ipotesi di questa riabilitazione cui si è accennato. Tutti i contributi si muovono in questa direzione, pur sottolineando aspetti molto diversi della riflessione di Guardini. Saranno gli studiosi, saranno anche gli autorevoli relatori di oggi, a confermare o meno in futuro se si può giustificare una tale convinzione, se alcune intuizioni guardiniane espresse a quei quattro livelli indicati sono meritevoli di una nuova stagione di studi del pensiero di Guardini. Di questi studi ulteriori, in fondo, il volume vuole essere infatti null'altro che uno stimolo e un supporto.